Allora sono le 12:36 minuti, dunque siamo al telefono con Cataldo Ranieri del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti di Taranto. Ciao, buongiorno Cataldo. Buongiorno, però aggiungiamo la parola a lavoratori anche, cittadini e lavoratori. Cittadini e lavoratori, cioè, sì, hai ragione, hai certamente ragione, insomma. E dunque, chiaramente parliamo dell'Ilva e parliamo anzitutto del gravissimo incidente che c'è stato ieri e che è costato la vita di un operaio, Claudio Marsella, 29 anni, originario di Oria, in provincia di Taranto, che è morto, è l'ennesima vittima dell'Ilva, questa volta non per inquinamento, tumori e per tutta la situazione che ben chi all'ascolto conosce, ma perché si continua a morire anche all'interno dello stabilimento. Cataldo, voi state denunciando una situazione anche piuttosto grave, per cui, con cui spiegare insomma questo quanto accaduto ieri. Sì, innanzitutto è bene purtroppo dare gli aggiornamenti, nel senso che dal 93 ad oggi sono 45 i deceduti in fabbrica a causa di infortuni, quindi parliamo di un vero e proprio sterminio. Se a questo si aggiunge che a nostro avviso, anzi sono praticamente chiare, le responsabilità di un accordo di riduzione del personale, ovvero si è consentito che per un'attività di lavoro così particolare si operasse da soli, ovvero è stato fatto un accordo tra le tre sigle sindacali e l'azienda nel novembre del 2010 che prevedeva la riduzione da 2 a 1 unità a seguito di automatismi che non sono mai stati completati comunque. Automatismi che comunque non. Automatismi e ristrutturazioni diciamo di passaggi e di scambi di binari che comunque, anche se fossero state realizzate in toto, sicuramente non potevano permettere in una fabbrica così pericolosa di poter operare da soli, anche perché parliamo di un soccorso arrivato con gravoso ritardo, perché il lavoratore pare sia rimasto senza nessun soccorso per oltre 45 minuti da quello che ci hanno detto i suoi colleghi, prima di essere trovato sul posto a terra, che era ancora vivo e che si lamentava. Per cui immaginiamo cosa abbia potuto passare purtroppo questo nostro collega. E inoltre stamattina il direttore del 118 ha dichiarato che non hanno ricevuto nessuna chiamata da parte dell'azienda, così come lui stesso afferma essere sancito dalle leggi vigenti. Per cui parliamo anche di eventuale omissione di soccorso, che è abbastanza grave. Noi abbiamo deciso ieri di partecipare allo sciopero, ovviamente un po' per rispetto al nostro collega e anche per fare qualcosa di utile. Purtroppo non abbiamo notato lo stesso attivismo dei sindacati che si è notato quando c'era da andare a bloccare la città in vantaggio dell'azienda e del posto di lavoro. Che in quelle occasioni i delegati uscivano da dietro le fioriere per avvisarci con sms, con telefonate di andare a bloccare la città. Non abbiamo avuto lo stesso attivismo, perché qualcuno anche chiamato non sapeva neanche che ci fosse lo sciopero addirittura. Però noi siamo andati davanti alla prefettura, abbiamo chiesto un impegno a chi ci ha ricevuto a nome del prefetto che non era presente. Abbiamo chiesto che questa volta, se ci sono delle responsabilità, i responsabili paghino sul serio per le loro colpe, perché se non sono da monito esempi e pene severe nei confronti di chi dovrebbe intervenire e non interviene, e allora continueremo purtroppo a ritrovarci con infortuni gravi all'interno dello stabilimento. Quindi noi comunque abbiamo preparato una denuncia alla Procura della Repubblica che stiamo finendo di redarre in virtù anche di questa nuova dichiarazione che ha fatto il direttore dell'ASL, che allegheremo alla denuncia, e abbiamo chiesto l'impegno affinché questa denuncia sia seguita deve essere in un paese che dovrebbe garantire giustizia, ma purtroppo a Taranto la giustizia ancora non viene garantita, visti gli eventi. Senti, Cataldo, ecco. Sì, no, no, no, chiaramente insomma la reazione da parte dei lavoratori, insomma quelli mi sento di dire più consapevoli, è stata immediata, nel senso che appunto c'è stata questa assemblea di piazza che ha anche dato un po' fastidio, visto che lì in piazza Bettolo ci stanno proprio le sedi dei sindacati confederali. Certo, noi in varie occasioni abbiamo chiesto un confronto pubblico che non è mai avvenuto, addirittura una radio tempo fa mi chiamò per avere un confronto con Landini, io ho accettato immediatamente, però lui ovviamente si è negato di farlo, non so perché, io sono un semplice lavoratore, avevo accettato di porre le mie ragioni al segretario generale della FIOM, però evidentemente ha ritenuto inopportuno parlare con me. A prescindere da questo, in ogni assemblea diciamo il nostro microfono è sempre disponibile, tanto è vero che con l'APECAR all'ultima iniziativa un segretario della UIRM di Taranto, dopo numerose sollecitazioni e provocazioni, finalmente è salito ed è venuto a parlare sul motocarro, ci sono le immagini, ovviamente quello che ha detto non ci ha soddisfatto per niente, perché chiedevamo per quale ragione fosse quello sciopero, che quando c'è uno sciopero il danno va fatto alla controparte, se tu blocchi le strade la controparte è la città di Taranto e certamente non è la città di Taranto che è l'artefice o il carnefice è qualcun altro, e noi contro di lui volevamo, contro lui è il governo italiano che non riesce a darci una soluzione al nostro problema, che volevamo si facessero le iniziative. Purtroppo non è stato assolutamente esaustivo, tanto è vero che poi ha preso solo fischi quando ha parlato. Ma a prescindere da questo, poi l'assemblea ieri sera ha deciso, visto che i sindacalisti non vengono da noi a spiegarci, per uno scatto di dignità dei lavoratori siamo andati a occupare una sede che è nostra, cioè quella sede di Piazza Bettolo è stata pagata in passato con i soldi dei lavoratori, per cui non so, loro sono ospiti di quella struttura. Riteniamo, e ce ne assumiamo le responsabilità, perché questo è quello che emerge dalle assemblee e dai reparti, che il sindacato di Taranto non solo non serve e non rappresenta, ma addirittura faccia danni essendo presente. Ne abbiamo chiesto le dimissioni, abbiamo dato un'ulteriore possibilità di venirsi a giustificare delle loro azioni, ma purtroppo avevano altro da fare ieri sera, quindi non c'era nessuno disponibile a raccontarci qualcosa rispetto al loro operato. Ora, giusto per essere chiari, perché insomma tu giustamente hai anche ricordato il numero dei morti all'interno dello stabilimento, insomma sì. E molto spesso, dal 93 a oggi non siamo aggiornati degli anni precedenti, che era ancora più perché c'era molto più personale. Certo. Molti non sono stati neanche registrati, noi abbiamo avuto occupazione per 40.000 persone, momenti storici in cui dentro quella fabbrica ce n'erano 40.000 di persone. Ecco, dicevo, quindi questo di trovare questi stratagemmi attraverso i quali, diciamo, per due lirette in più magari si va in deroga, cioè quindi non si osservano quelle che dovrebbero essere delle norme pattuite rispetto ad esempio al numero dei lavoratori coinvolti in questa o quell'operazione, è una vicenda che informa di sé un po' tante altre questioni, no? La questione dell'amianto ad esempio è proprio un modus operandi questo all'interno dell'Ilva, di cui complici sono i sindacati. Assolutamente, guarda, anche l'accordo che è stato chiuso in virtù di del posto di lavoro dove operava Claudio è stato scambiato per 450 euro in un'unica soluzione. I lavoratori del movimento ferroviario, quando hanno ricevuto quell'accordo fatto tra sindacati e azienda, si sono lamentati di questo accordo, però alcuni dirigenti e sindacalisti gli hanno detto: questo è, se qualcuno obietta qualcosa non prenderà neanche i 450 euro a gennaio 2011 in un'unica soluzione, ovviamente. Quindi quello, si tratta di svendere la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma questo atteggiamento ha dei precedenti, come tu giustamente dicevi. L'amianto, per esempio, noi abbiamo a Taranto l'aumento del 419% dei mesotelomi, se non mi sbaglio, non ricordo bene come si chiama la malattia che provoca l'amianto, Comunque questo tipo di malattia è aumentato del 419%. Questo accade perché invece di debellare definitivamente l'amianto si è pensato a trarre il beneficio pensionistico, e quindi il risultato è che noi siamo pieni di amianto in fabbrica. Non solo, ogni qualvolta che c'è da intervenire, come si dovrebbe fare oggi, che il governo ci ha detto che la situazione è altamente drammatica a Taranto, il sindacato ancora non ha fatto di Taranto nemmeno un'ora di sciopero a favore dell'ambiente. Per cui, sai cosa succede adesso? Che noi ci ammaliamo e il sindacato per noi fa la causa di risarcimento danni, per cui prende la percentuale nel momento in cui vince la causa. Al lavoratore gli danno una piccola pensione, poi muore ovviamente, perché queste sono malattie che ci portano alla morte. Il risultato è che quando siamo vivi paghiamo la tessera, quando siamo morti prendono la percentuale. Insomma, questo sindacato prende sempre, questa azienda prende sempre, i lavoratori non prendono mai, anzi prendono soltanto le malattie. È uno stipendio ovviamente misero, e per quello stipendio deve contraccambiare i diritti, sicurezza, dignità, qualsiasi cosa all'interno di quella fabbrica, perché il ricatto occupazionale non riguarda soltanto tutto ciò che avviene intorno a noi, riguarda anche le condizioni in cui siamo, nelle quali noi operiamo in fabbrica. Là non si può obiettare niente, perché sei uno che va perseguito. Se tu obietti un diritto sulla sicurezza, anche, non dico diritti normali, fondamentali, diritti sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro, diventi una persona che non vuole lavorare, che va trasferita dalle parti punitive, e ce ne sono tanti di questi casi. Il sindacato si gira dall'altra parte, ovviamente. E quindi questo è quanto. Mamma mia, davvero davvero sconcertante questa situazione. È una situazione davvero drammatica, guarda. Senti Cataldo, allora vabbè, oltre al fatto che chiaramente insomma anche oggi ci saranno dei momenti di volantinaggio davanti alle portinerie dell'Ilva, sì, per tutto il resto poi mi sembra di capire che si sta preparando comunque una grande mobilitazione per dicembre su tutte le questioni che ormai il largo fronte insomma ha abbracciato rispetto alle battaglie condotte dal vostro comitato, no? Certo, noi siamo consapevoli e cerchiamo di diffondere questa consapevolezza, che soltanto se siamo insieme tutti usciremo dal nostro problema, perché questo non è un problema che riguarda qualcuno, è il problema della devastazione ambientale, dell'inquinamento, delle malattie che uccidono, è un problema che riguarda l'intera comunità di Taranto, perché quando qualcuno viene colpito da queste malattie, la morte non va a vedere il grado di cultura o lo stato sociale o quanti anni hai o quanti soldi hai, non guarda in faccia a nessuno, per cui il problema riguarda un'intera comunità che deve essere unita per pretendere ciò che gli spetta. Io sono un lavoratore, sono 15 anni che sono in quella fabbrica, non posso dire chiudiamo l'impianto, perché per orgoglio di lavoratore non lo faccio. Io dico però che questi impianti si avvelenano, me e la mia famiglia vanno immediatamente fermati, si deve, un governo capace, un governo serio costringe l'azienda a spiegare bene quali sono le intenzioni, perché noi le intenzioni le abbiamo già capite, soltanto che le vogliamo sentire da chi dovrebbe tirare fuori le ricchezze che ha accumulato a Taranto per risolvere il problema, perché non dimentichiamoci che è tutta una questione di maledetti e sporchi soldi. La nostra vita, la nostra salute è legata a quanto decide di uscire il padrone che a Taranto ha soltanto preso. Uso questo termine antico, però purtroppo, siccome è antico, è comprensibilissimo, va bene. Non ho capito, scusa. No, è comprensibilissimo, quindi va bene, insomma, lo dici a fronte di un ragionamento, mi sembra che non fa una grinza, per cui assolutamente. Purtroppo non abbiamo un governo capace di imporsi, abbiamo un governo che è vittima di un ricatto da parte di un'azienda, perché questo governo, siccome è transitorio, non vuole rogne di ritrovarsi 15.000 persone sul groppone, non è capace di trovare una soluzione, è ricattato dal potere, purtroppo, da quello che abbiamo visto. Queste ovviamente sono mie interpretazioni alla vicenda intera, che ho seguito ovviamente da vicino, perché interessa sia me che la mia famiglia. Va bene, allora Raniero, noi ci sentiremo sicuramente nel corso delle prossime settimane e insomma le nostre condoglianze chiaramente da parte di tutti i compagni e le compagne della nostra redazione, ai lavoratori e a tutti coloro i quali sostengono il vostro comitato per la morte dell'operaio Marsella, e sicuramente ci sentiremo in seguito per le vostre iniziative. Noi ti salutiamo. Grazie a voi, grazie tante. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.